facile pensarla così, mi dicono. E allora, se è facile perché nessuno lo pratica ancora. Odio la guerra non perché è ingiusta, ma perché è feroce e mi fa paura. Alzo la mia voce perché i tempi lo richiedono. Troppi troppo buoni e troppi troppo poco non ci vedono. Devo aprire loro gli occhi, seguono sentieri per la terra dei balocchi. Strade false che portano a burroni, consigli di presidenti dei miei coglioni. Con cosa fa rima non voglio fare nomi, inerpicandomi così in vane discussioni. Prendo posizioni sì ma non le tengo strette, che il cielo li colpisca con fulmini e saette. E li faccia fette tutti con le loro macchinette d'oro, la loro arroganza e le menzogne maledette. Rabbia senza fine, senza una precisa linea di demarcazione. Rabbia senza fine, senza un confine, una precisa motivazione. Quando ammazzano un militare, nella nostra patria c'è cordoglio nazionale. Nell'orgoglio dell'essere italiani, fedeli spettatori della stampa e dei giornali. Così bravi, andiamo in guerra per la pace. Ci piace pensare che il mondo non sia capace di pensare ai propri affari. Quindi andiamo noi adesso a cercare bombe nucleari. E lo strazio di quei corpi martoriati dall'uranio impoverito. Effetti collaterali e il dolore di una madre per un figlio seppellito. Qua da noi non va mai sui quotidiani e così votiamo ladri e i profughi che giungono in Italia. Li chiamiamo criminali, vivendo alleggeriti dalle colpe e dai detriti che lasciamo nei paesi che invadiamo. Rabbia senza fine, senza una precisa linea di demarcazione. Rabbia senza fine, senza un confine, una precisa motivazione. Rabbia senza fine, senza una precisa linea di demarcazione. Rabbia senza fine, senza un confine, una precisa motivazione. We'll be right back.